Per tornare a Françoise, in vita mia non ho mai subito un'umiliazione senza trovare sul suo volto, in anticipo, delle condoglianze belle e pronte. E quando, nella rabbia scatenatami dalla sua compassione, mi ostinavo a pretendere d'aver invece riportato un successo, le mie menzogne andavano vanamente a frantumarsi contro un'incredulità rispettosa ma evidente e contro una ferma consapevolezza della propria infallibilità. Françoise, infatti, sapeva la verità. La taceva e si limitava a fare un piccolo movimento con le labbra come se avesse la bocca piena e stesse finendo un buon boccone. La taceva, così almeno ho lungamente creduto. Io che a quel tempo mi figuravo ancora che la verità si comunicasse agli altri con le parole. Anzi, le parole che mi venivano dette deponevano con tanta accuratezza il proprio inalterabile significato nella mia mente, nella mia sensibilità, da farmi escludere che qualcuno che m'avesse detto d'amarmi non m'amasse, esattamente come la stessa Françoise non avrebbe mai sospettato, avendolo letto sul giornale, che un prete o una qualsiasi altra persona non fosse capace, dietro richiesta indirizzatagli per posta, di inviarci gratis un rimedio infallibile contro tutte le malattie o un metodo per centuplicare le nostre entrate. In compenso, se il nostro medico le prescriveva la più semplice delle pomate contro il raffreddore di testa, lei, così resistente alle sofferenze più dure, non finiva mai di lagnarsi della roba che le avevano fatto ispirare, assicurando che le pizzicava il naso e che non ne poteva davvero più. Ma fu Françoise la prima a insegnarmi, dandomene l'esempio, un esempio che avrei capito solo in seguito, quando di nuovo e più dolorosamente me l'avrebbe dato, come si vedrà negli ultimi volumi di quest'opera, una persona a me più cara, che per manifestare la verità non occorre esprimerla a parole e che forse è possibile coglierla con maggior certezza, senza aspettare le parole e senza tenerne alcun conto, in mille segni esteriori, persino in certi fenomeni invisibili, analoghi nel mondo dei caratteri a quel che sono nella sfera fisica i mutamenti atmosferici. Magari avrei potuto sospettarlo, visto che anche a me, allora, capitava spesso di dire delle cose dove non c'era un briciolo di quella verità che rivelavano invece tante confidenze involontarie del mio corpo e del mio comportamento, ottimamente interpretate queste ultime da Françoise. Avrei potuto sospettarlo, ma per questo avrei dovuto sapere che io stesso, allora, ero a volte subdolo e bugiardo. Ora, doppiezza e menzogna erano in me, come in tutti, una conseguenza così immediata e contingente e tipicamente difensiva di un interesse particolare che la mia mente, assorta in un bel ideale, lasciava al mio carattere l'incombenza di sbrigare nell'ombra quelle vili e urgenti bisogne senza nemmeno voltarsi a guardare. Quando Françoise la sera era gentile con me, quando mi chiedeva il permesso di sedersi in camera mia, mi sembrava che il suo viso diventasse trasparente e di scorgere in lei bontà e schiettezza. Ma Jupien, nel quale esistevano zone di indiscrezione che conobbi solo in un secondo tempo, rivelò in seguito come Françoise andasse dicendo che io non valevo la corda per impiccarmi e che avevo cercato di farle tutto il male possibile. Queste parole di Jupien mi misero di colpo sotto gli occhi, con tinte inaspettate, un quadro dei miei rapporti con Françoise così diverso da quello su cui mi compiacevo spesso di soffermare lo sguardo e secondo il quale, senza la minima incertezza, Françoise mi adorava e non perdeva occasione per tessere le mie lodi, che mi resi conto di come non sia soltanto il mondo fisico a differire dall'aspetto con cui si manifesta. Ogni realtà, forse, è altrettanto dissimile da quella che crediamo di scorgere direttamente e che ci confezioniamo con l'apporto di idee invisibili ma attive, allo stesso modo che gli alberi, il sole e il cielo non sarebbero quali li vediamo se a conoscerli fossero creature dagli occhi conformati diversamente dai nostri o dotati per questa funzione di organi diversi dagli occhi e tali da fornire, di alberi, cielo e sole, degli equivalenti non visibili. Comunque fosse, il brusco, rude scorcio sul mondo reale, apertomi quella volta da Jupien, mi riempì di spavento. Eppure si trattava solo di Françoise e di lei non mi importava quasi nulla. Accadeva lo stesso in tutti i rapporti sociali. E fino a che punto di disperazione sarei potuto giungere un giorno se era così anche in amore? Stava in questo il segreto del futuro. Per il momento si trattava solo di Françoise. Pensava veramente ciò che aveva detto a Jupien? L'aveva detto soltanto per guastare i miei rapporti con Jupien, magari perché non assumessimo al suo posto la figlia di Jupien? In ogni caso, capì che era impossibile sapere in modo diretto e sicuro se Françoise mi volesse bene o mi detestasse. E fu lei, così, la prima a suggerirmi che, contrariamente a quanto avevo creduto, una persona non se ne sta davanti a noi limpida e immobile con le sue qualità, i suoi difetti, i suoi progetti, le intenzioni che nutre nei nostri confronti, come un giardino osservato aiola per aiola attraverso una cancellata. Ma una persona è un'ombra in cui non c'è mai possibile penetrare, di cui non c'è data conoscenza diretta, intorno a cui ci formiamo numerose convinzioni fondate su parole e anche azioni che ci forniscono, sia le une che le altre, informazioni insufficienti e d'altronde contraddittorie, un'ombra dove possiamo di volta in volta immaginare, con lo stesso grado di verosimiglianza, il balenare dell'odio o dell'amore. Amavo veramente Madame de Guermantes, che le piombassero sul capo tutte le calamità e che, rovinata, screditata, spogliata di ciascuno dei privilegi che mi separavano da lei, priva di una casa dove abitare e finanche di persone disposte a salutarla, venisse a implorare asilo da me, non avrei potuto chiedere a Dio felicità più grande. La immaginavo in quell'atto. E persino le sere in cui qualche mutamento nell'atmosfera o nel mio stato di salute mi riportava alla coscienza qualche rotolo dimenticato sul quale erano scritte certe impressioni del passato, anziché approfittare delle forze di rinnovamento appena scaturite dentro di me, volgendole alla decifrazione di qualche pensiero che normalmente mi sfuggiva, anziché mettermi una buona volta al lavoro, preferivo parlare ad alta voce, pensare in modo convulso, esteriore, che si risolveva in un discorso e in una gesticolazione inconcludenti, nient'altro che un romanzo d'avventure, sterile e privo di verità, dove la duchessa, caduta in miseria, veniva a supplicare me divenuto nel frattempo, per un concorso di circostanze inverse, ricco e potente. Ma dopo ore e ore passate a immaginare simili circostanze, a pronunciare le frasi che avrei rivolte alla duchessa accogliendola sotto il mio tetto, la situazione rimaneva invariata. Nella vita reale, ahimè, io avevo scelto per amarla proprio la donna che riuniva in sé, forse, il maggior numero di pregi d'ogni genere e ai cui occhi, perciò, non potevo sperare di godere d'alcun prestigio. Era ricca quanto il più ricco dei non nobili, senza contare il fascino personale che l'aveva resa tanto di moda, facendone fra tutte una sorta di regina. Mi accorgevo che, comparendole davanti ogni mattina, la irritavo. Ma se anche avessi trovato il coraggio di non farlo per 2 o 3 giorni, questa astensione, che mi sarebbe costata un enorme sacrificio, lei, Madame de Guermantes, forse non l'avrebbe nemmeno notata o l'avrebbe attribuita a qualche impedimento indipendente dalla mia volontà. E, in effetti, sarei riuscito a non mettermi più sulla sua strada solo ponendomi laboriosamente nell'impossibilità di farlo, perché il bisogno sempre rinascente di incontrarla, di essere per un istante l'oggetto della sua attenzione, colui al quale veniva rivolto il suo saluto, quel bisogno era più forte del dispiacere di infastidirla. Avrei dovuto allontanarmi per qualche tempo. Non ne avevo il coraggio. Ogni tanto ci pensavo. Dicevo allora a Françoise di prepararmi i bagagli e subito dopo di disfarli. E poiché il demone dell'imitazione e l'ansia di apparire aggiornati alterano anche il modo di esprimersi più naturale e sicuro, Françoise, attingendo al lessico della figlia, diceva che ero suonato. Non era contenta. Mi rimproverava d'essere sempre tentennante. Quando non voleva competere con i moderni, usava addirittura il linguaggio di un Saint-Simon. Ancor meno, però, le piaceva che le parlassi da padrone. Sapeva che non era nella mia natura, che non mi si addiceva, concetto da lei espresso dicendo che voler non potevo. Sarei risolto a partire soltanto in una direzione che mi avvicinasse a Madame de Guermantes. La cosa non era impossibile. In realtà, non le sarei stato più vicino di quanto non lo fossi il mattino per la strada, solo, umiliato, con la sensazione che non uno dei pensieri che avrei voluto indirizzarle sarebbe mai giunto sino a lei, nel ristagno di quelle mie passeggiate che sarebbero potute durare all'infinito senza farmi avanzare d'un passo. Non le sarei stato più vicino se mi fossi recato a molte leghe di distanza, ma in casa di qualcuno che lei conoscesse, sapendolo per giunta esigente nella scelta delle sue relazioni e che apprezzandomi potesse parlarle di me e se non proprio ottenerne quel che volevo, almeno farglielo sapere? Qualcuno con il quale, comunque, non foss'altro che esaminando insieme la possibilità che si incaricasse o meno di questa o quell'ambasciata presso Madame de Guermantes, io potessi dare alle mie fantasticherie mute e solitarie una nuova forma parlata, attiva, che mi sarebbe parsa un progresso e quasi una realizzazione? Riuscire in ciò che la duchessa faceva durante la sua misteriosa vita da Guermantes e che era al centro delle mie costanti immaginazioni, riuscire ad introdurmici, anche in modo indiretto, come con una leva, servendomi di qualcuno cui non fossero interdetti il suo palazzo, le sue serate, le lunghe conversazioni con lei, non sarebbe stato un contatto più distante, ma più effettivo di quella mia quotidiana contemplazione stradale? L'amicizia, l'ammirazione di Saint-Loup nei miei confronti mi sembravano immeritate e mi erano rimaste indifferenti. Tutt'a un tratto acquistarono un loro valore. Avrei voluto che egli le rivelasse a Madame de Guermantes, sarei stato capace di sollecitarlo perché lo facesse. Quando si è innamorati, tutti i piccoli, sconosciuti privilegi di cui si è detentori, si vorrebbe poterli esibire alla donna amata, come fanno nella vita i diseredati e i seccatori. Soffriamo al pensiero che siano ignorati, cerchiamo di consolarci dicendoci che forse, proprio perché questi rimangono invisibili, alla sua idea di noi lei aggiunge la possibilità di qualche imprevedibile prerogativa. Era parecchio tempo che Saint-Loup non poteva più venire a Parigi. Un po', così diceva lui, per le esigenze della sua occupazione, un po' e più probabilmente per i dispiaceri che gli infliggeva l'amante con la quale era già stato due volte sull'orlo della rottura. Mi aveva spiegato ripetutamente quanto bene gli avrei fatto andando a trovarlo in quella guarnigione il cui nome, letto sulla busta della prima lettera inviatami dall'amico due giorni dopo la sua partenza da Balbec, m'aveva procurato tanta gioia. Meno distante da Balbec di quanto potesse far supporre il paesaggio tipicamente rurale, era una di quelle cittadine aristocratiche e militari, circondate da una vasta campagna, dove, nelle belle giornate, aleggia spesso in lontananza una sorta di intermittente vapore sonoro che, così come una cortina di pioppi disegna con le sue sinuosità il corso invisibile d'un fiume, rivela gli spostamenti d'un reggimento in manovra, al punto che l'atmosfera stessa delle vie, dei viali e delle piazze ha finito col contrarre una sorta di perpetua vibratilità musicale guerresca e il più grossolano rumore di carro o di tramvai vi si prolunga in vaghi appelli di tromba riecheggianti all'infinito, per effetto del silenzio, negli orecchi allucinati. Non era così lontana da Parigi che io non potessi, scendendo dal rapido, tornare a casa, rivedere la mamma e la nonna e dormire nel mio letto. Non appena me ne fui reso conto, in preda ad un desiderio doloroso, non ebbi più la volontà sufficiente per decidere di non tornare a Parigi e di restare nella cittadina, ma nemmeno per impedire a un portabagagli di caricare la mia valigia su una vettura di piazza, né per evitare di assumere, mentre lo seguivo, l'atteggiamento svagato di un viaggiatore che tenga d'occhio le proprie cose e che nessuna nonna stia aspettando, né per vietarmi di salire sul fiacre con la disinvoltura di chi, avendo smesso di pensare a ciò che vuole, ha l'aria di sapere ciò che vuole, né, infine, per trattenermi dal dare al vetturino l'indirizzo della caserma di cavalleria. Pensavo che Saint-Loup sarebbe venuto quella notte a dormire nel mio albergo per rendermi meno angoscioso il primo contatto con quella città sconosciuta. Un piantone andò a chiamarlo ed io rimasi ad aspettare presso il portone della caserma di fronte a quella grande nave tutta risonante dal vento di novembre e dalla quale, poiché erano le 6 di sera, si riversavano di continuo sulla strada, a due, uomini un po' vacillanti, come se sbarcassero sulla banchina di un porto esotico cui fossero momentaneamente approdati.